628. Pasticcini di mazzapane. Fate una pasta frolla con la ricetta C del numero 589. Fate un mazzapane come quello del numero 579 nelle seguenti proporzioni: mandorle dolci con tre amare sbucciate, grammi 180. Zucchero grammi 150, burro grammi 25, arancio candito grammi 25, un rosso d'uovo, diverse cucchiaiate d'acqua. Servitevi degli stampini da brioche o alquanto più piccoli che sarebbe meglio. Ungeteli col burro, foderateli di pasta frolla sottile quanto uno scudo, riponeteci il marzapane, ripiegategli sopra i lembi della pasta. Bagnate l'orlo con l'acqua, copriteli con la stessa pasta frolla, dorateli alla superficie, cuoceteli in forno o nel forno da campagna e dopo spolverizzateli di zucchero a velo. Con questa dose potrete farne da 16 a 18.